Questo gruppo di ribelli si è creato da una grande amicizia che ci lega con tutti gli artisti. Poi oltre a questo diciamo che non interessava chiamare muralisti che avessero nel loro background una certa criticità verso tematiche sociali, quindi il gruppo è nato così abbastanza facilmente, insomma non è che siamo andati a ricercare lontano. Sì, infatti tutti quanti hanno già dipinto qui, hanno all'attivo appunto tematiche sociali, quindi tu hai semplicemente chiamato e loro hanno accettato la chiamata subito. Sì. E invece a proposito dei luoghi che verranno dipinti, mi dici quali sono e ci parli un po' di questo e anche chi dipingerà dove? Si dipingerà principalmente nella cartiera, nella ex cartiera di Lama di Reno, che sta comunque è una frazione di Marzabotto. Principalmente si lavorerà là, poi in teoria avremo anche delle cabine Enel, sempre lì a Lama di Reno e a Marzabotto, però adesso capiamo bene come intervenire. Sicuramente interverremo principalmente sull'ex cartiera, mentre per quanto riguarda i muri ancora non sappiamo, nel senso che adesso decideremo lì davanti ai muri e capiremo insomma lì come lavorare. E a proposito dell'ex cartiera, appunto, che ricordo è stato il primo impianto di disinchiostrazione d'Europa per il riciclo della carta e oggi purtroppo è abbandonata. Visto che lavorerete sì. molto lì, pensi c'è già una progettualità di riutilizzare questo immenso spazio, magari dopo e grazie a questo intervento? Che io sappia, il comune ha avuto varie idee per dare una nuova vita a quello spazio, però lo spazio è enorme, qui è privato, quindi immagino abbiano avuto problemi negli anni. La nostra idea è quella comunque di ridare sicuramente nuova vita almeno alla parte esterna, soprattutto a livello visivo, perché è un bel pugno nell'occhio, è un edificio fatiscente, bello grigio, quindi secondo me con il nostro intervento sarà un notevole cambiamento anche legato proprio a che ci abita, insomma. Poi non so, adesso sinceramente per quanto riguarda tutto l'aspetto futuro dell'edificio non ho notizie in merito. Riguardo invece a Pennelli Ribelli, dal comunicato si legge che uno dei vostri obiettivi è di dare un nuovo linguaggio dedicato alla memoria e simbolicità di Marzabotto. Come pensate di farlo? Cercando di dare una nuova vita a questo edificio, si cerca anche di reinterpretare un attimo la storia in chiave moderna, quindi con tutta la parte legata ai partigiani, ma anche all'evento di Montesole. Certo, ogni artista sicuramente reinterpreterà questa storia e questo luogo in maniera differente, però sono sicuro che tutti prenderanno un sacco di idee, di tematiche da questi eventi, da questo territorio che ha una grande valenza storica. Sì, infatti già avete scovato per esempio la memoria del lupo Mario Musolesi. Già sì, la memoria del lupo, esatto, che è diventata il nostro logo di Pennelli Ribelli. Ed è venuto esatto da Mario Musolesi, è una cosa che è nata abbastanza spontaneamente. Visto che ridipingerete appunto grandi pareti, le tematiche comunque saranno sulla memoria storica del luogo e comunque dell'Italia in generale, della Resistenza, dopo l'intervento sui muri, magari avete già pensato anche a come diffondere le notizie, questa memoria storica? Non so se avete pensato a collaborazioni magari con la Squadro, per esempio, con gallerie, a fare fanze o a fare dei tour, insomma qualcosa del genere. Ma sicuramente se vediamo che c'è un interesse sicuramente organizzeremo dei tour, ma il nostro obiettivo è quello anche, cioè questo è solo l'inizio, vorremmo in realtà dipingere tante altre pareti anche sulle frazioni vicine, quindi speriamo che il progetto prosegua, mentre collaborazioni sicuramente ce ne saranno. Abbiamo per ora iniziato un po' di collaborazioni con vari locali di Bologna, di Marzabotto, per presentare il progetto alle varie persone insomma che erano interessate. Più avanti, dopo il festival, sicuramente ci sarà qualche altra collaborazione più interessante, magari a livello di serigrafia e di stampe. Sono varie idee che ora sì, dobbiamo mettere in pratica. Ok, quindi c'è la possibilità di un Pennelli Ribelli 2 già? Ma l'idea c'è. L'idea c'è, adesso comunque il comune è stato da subito propenso alla collaborazione con l'associazione, quindi se gli abitanti di Marzabotto rispondono e ci donano i muri, noi vorremmo continuare.